Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel racconto di un padre, l'ansia e le paure di una notte passata a vegliare il figlio colpito da influenza da virus A. Sono almeno 2 mesi che l'aspetto. Da quando si sono riaperte le scuole non ho parlato d'altro con i genitori di altri bambini. Il tuo come sta? Il mio ha un po' di tosse, speriamo bene. Ci siamo consolati per alcune settimane, poi d'improvviso, nelle ultime 2, è diventato un bollettino di guerra. Si è ammalato Enrico, Luca ha avuto la febbre e poi altri nomi ancora. La suina è entrata nelle nostre case e anche nella mia. È arrivata all'improvviso. Una tosse insistente e poi la febbre. Le guance diventano rosse, il respiro si affatica, il bambino diventa irrequieto. I bambini sanno che cos'è la suina. Qualcuno fra i più grandi ha letto i titoli dei giornali, altri hanno ascoltato la televisione. Sono spaventati anche loro. Il mio in 3 giorni ha dormito poco meno di 10 ore. Ieri, quando il medico gli ha detto che stava guarendo, una volta entrato in macchina per tornare a casa, si è addormentato sereno. Andrea, mio figlio, ha 7 anni. Molti suoi compagni di scuola si sono ammalati prima di lui, ad altri sta toccando ora. «Non portatelo in ospedale», mi ha detto un medico amico di famiglia. Il pediatra, ascoltati i sintomi, non ha avuto dubbi. È la suina. L'annuncio ha riempito di angoscia le giornate mie e di mia moglie. Un medico ancora più premuroso mi ha detto: «Tu sei cardiopatico, tieniti lontano dal ragazzino». E come si fa? All'inizio la febbre sale di poco, ma non molla la presa. Ti dicono di dare solo la tachipirina, ogni 4 ore. Gliela dai, ma la febbre sale ancora e quella tosse maledetta sconvolge il corpicino del piccolo. Arriva la notte, è il momento peggiore. Il medico amico ti ha detto che la notte è la più pericolosa. Bisogna tenere d'occhio il ragazzino. Ci si prepara ad affrontarla. Chi prende il sonnifero lo abbandona. Il bicchiere di vino viene rimandato a giorni migliori per evitare assopimenti. Passano le ore davanti alla TV. Il ragazzino un po' dorme, un po' si agita. Poi inizia a parlare nel sonno. Gli occhi. Gli tocchi la fronte e brucia. Tutto il suo corpicino è un tizzone acceso. Queste maledette 4 ore che ti separano dall'altra pillola di tachipirina passano lentamente. Gli mettiamo il termometro? Si ha un po' paura di farlo. Genitori e amici ti hanno detto che il mercurio sale fino a 40 e oltre. Aspetti un po', gli poggi la guancia sulla fronte per sentire quanto è caldo, poi lo svegli per misurare la temperatura. I più fortunati, io lo sono stato, scoprono che il termometro si è fermato poco prima dei 40. La tachipirina non basta. Bisogna fare come si faceva una volta. Prendi tutto il ghiaccio che hai nel freezer e riempi una borsa che gli poggi sulla testa. Lui si lamenterà, ma non devi dargli retta. In TV va un film di cui non capisci una mazza, mentre con 2 mani dolcemente tieni premuta la borsa sulla testolina. Intanto il bambino si è svegliato. La febbre lo stordisce, trema tutto e inizia a parlare ininterrottamente. Il mio mi ha chiesto che cosa succede nell'aldilà. Finalmente arriva la mattina. Il medico, che ti sta dando una mano, ti rassicura. È un'influenza pesante, ma non è pericolosa. Inutile andare in ospedale se non si hanno patologie particolari. «Gli facciamo fare il tampone?» chiedo. Inutile anche quello. Non c'è un medico con cui abbia parlato che sia stato vaccinato. La mattina è il momento in cui le mamme si parlano. «Come sta il tuo? Quanti altri si sono ammalati nella classe dei nostri ragazzi? Ci diamo coraggio, ma abbiamo tutti una fifa matta. Il secondo giorno la febbre non ti dà tregua. È persino inutile a misurarla, ma bisogna farlo. La tachipirina va sempre data ogni 4 ore. Al mio hanno fatto fare anche 3 inalazioni con il Clenil per dare sollievo alle vie respiratorie. Si avvicina la seconda notte. Ormai sai già che anche questa sarà un inferno». Una coppia di amici con il bambino aggredito da una febbre a 40 lo hanno spogliato nudo e gli hanno fatto un bagno con acqua tiepida, quasi fredda. Solo così la febbre ha cominciato a scendere. Io ho ripreso in mano la borsa del ghiaccio. Un'altra notte di passione. I tremiti, i vaneggiamenti, il corpicino infuocato, ma quella testa fredda ha impedito le convulsioni. La tosse non smette mai, è dura, insistente, qualche volta canina. Ma non date gli antibiotici senza il consiglio del medico. Non serve a niente. La tachipirina comincia a far sentire i suoi effetti, ogni tanto il ragazzino suda. Fatelo bere, hanno detto i medici, e noi lo facciamo bere anche quando lui non vuole. Sono 2 giorni che un cerchio ti stringe la testa. E se capitasse anche al mio la disgrazia che sta capitando ad altri bambini che non ce l'hanno fatta? Il passaparola si fa insistente. L'annuncio della guarigione di un ragazzino è di buon augurio per quelli che stanno ancora male. Inizia il 3° giorno. La febbre scende. Il bambino si ravviva. Poi, nel corso della giornata, all'improvviso risale. La 3ª notte va così e così. La borsa del ghiaccio non serve più, ma tu continui a stare la notte con gli occhi sbarrati, spiando ogni respiro. Se la coppia supera questa prova, il matrimonio è al sicuro. Il 4° giorno la febbre comincia a diradarsi, ma ti accorgi che il ragazzino ha occhiaie pazzesche, che è dimagrito e che ha un colorito pallido da far paura. Forse siamo al giro di boa. La scuola è falcidiata dalle assenze, ma non può chiudere finché i medici non scrivono sui certificati che è febbre suina. Per scriverlo hanno bisogno che siano stati fatti i tamponi, ma nessuno sa come si fa e in ospedale ti dicono giustamente di non andare. Ci si arrangia. Chi ha avuto un bambino ammalato fa da medico ad altri genitori. I medici hanno un diavolo per capello perché li hanno lasciati completamente soli. Per fortuna che i bambini guariscono e forse stasera mi posso bere un bel bicchiere di rosso per dormire un po'. Ma solo un po', perché quella creatura che è tornata nel letto dei genitori respira ancora in modo che non mi piace. Spero che tocchi a pochi di voi questo incontro con la suina, ma temo che sarete in tanti. Avete solo bisogno di tanto sangue freddo e di tanta pazienza. Avrete tanto da fare per alcuni giorni che vi dimenticherete persino la paura. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Peppino Caldarola, Le mie 3 notti col ghiaccio sulla testa di Andrea, dal Riformista del 3 novembre. Mentre il numero delle vittime da influenza da virus A continua a salire, cresce anche l'incertezza sulle misure da prendere per affrontare la pandemia, come sottolinea ironicamente Massimo Gramellini nella sua rubrica Buongiorno sul quotidiano La Stampa. Tu hai un figlio di 7 anni con un filo di tosse che non si spezza e metà della classe è scomparsa sotto le lenzuola, compresa la bambina a cui dice di aver dato un bacio sulla bocca. A 7 anni, depravato. Vuoi sapere se rischia la peste o una semplice costipazione? Compulsi il comunicato di un'associazione di pediatri. Sostiene che bisogna vaccinare tutti i bambini, ma che i vaccini non ci sono. Stai per lanciarti a testa bassa contro la serranda di una farmacia quando sul telefonino appare un comunicato. È un'altra associazione di pediatri che gentilmente ti informa che i vaccini ci sono, ma i bambini non vanno vaccinati. Stai per impazzire. Compri i giornali. Quelli dell'opposizione dipingono scenari a metà fra la bidonville e il lazzaretto. Quelli governativi trattano la suina con lo stesso divertito distacco di un raffreddore da fieno. Possibile che anche l'influenza debba essere di destra o di sinistra? Vorresti un'influenza tranquilla? Un'influenza UDC? Accendi il televisore per la conferenza del viceministro Fazio. Hai bisogno del verbo rassicurante dell'autorità. Compare un signore involuto e palesemente a disagio con il microfono, così poco berlusconiano che, se lo vede il principale, per la rabbia gli attacca la scarlattina. Spegni. Più agitato di prima. Arriva un dispaccio d'agenzia. Dei ricercatori inglesi garantiscono che i baci rafforzano il sistema immunitario, purché i baciatori si scambino effluvi da almeno 6 mesi. Chiedi a tuo figlio quante volte ha baciato la bambina. Soltanto una, dice lui per tranquillizzarti. E tu ti disperi. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, Cronache suine, dalla Stampa del 3 novembre. Letture di Radio 24. Nei dibattiti sull'integrazione degli immigrati si ricorre spesso al confronto con un tempo recente della nostra storia in cui erano gli italiani a cercare fortuna all'estero. Ma la maggior parte di questi italiani sono poi rientrati in patria, come rivela una recente statistica. Non sarebbe più utile, si domanda Carlo Panella sulle pagine del Foglio, fornire agli stranieri i mezzi per tornare in patria, anziché cercare di integrarli ad ogni costo? Puntare e integrare gli immigrati nella società italiana è politica egoistica, miope e fuori dalla realtà. Puntare all'opposto a fornire loro i mezzi per tornare in patria dopo il periodo di lavoro in Italia è invece una politica solidale, lungimirante. Accentuare l'integrazione è politica neoimperialista che ruba forza lavoro e intelligenze al sud del mondo per immetterle nel nord dello sviluppo, come un tempo rubava materie prime. Accentuare le possibilità di un'opzione diversa all'integrazione definitiva, favorire il loro ritorno in patria, è invece una politica progressista che contribuisce in modo determinante a colmare i dislivelli di sviluppo. Non lancio una provocazione, sono solo infastidito da un dibattito sull'immigrazione che ormai in Italia ha perso ogni contatto con la realtà, che si sviluppa unicamente per linee ideologiche, che non guarda al mercato del lavoro, al contesto, a orizzonti vasti. Basta accettare lo schema che tutti ci propongono. Guardate a quanto fecero gli italiani quando erano immigrati, guardando all'oggi e non a 100 anni fa, e si comprende la debolezza intrinseca di una politica tutta puntata su una concezione dell'integrazione definitiva verso una società multietnica. La Caritas Migrantes, unica organizzazione attendibile statisticamente, assieme alla Fondazione Friedrich Ebert, ci fornisce uno specchio attendibile della realtà circa l'emigrazione italiana in Germania, paese a cui l'Italia deve guardare e non solo, perché a differenza nostra ha statistiche serie e attendibili. La realtà, quella vera, ci informa dunque che dagli anni 50 ad oggi 36 milioni e 300 mila immigrati sono andati a lavorare in Germania, che hanno avuto una permanenza media di attività in Germania di 17 anni e che tra loro ben 26 milioni e 500 mila sono rimpatriati. Il saldo attuale è di 6 milioni e 750 mila immigrati. Ogni anno entrano oggi in Germania 558 mila immigrati, ma ne escono 448 mila. Cifre che stanno a significare una sola cosa: il pilastro principale nella realtà del fenomeno migratorio contemporaneo è la rotazione. Una realtà che smonta radicalmente, brutalmente, tutta l'impostazione iperintegratoria finalizzata alla cittadinanza italiana che va per la maggiore. Cifre che spiegano come il problema della cittadinanza riguardi solo una parte marginale di questo immenso tourbillon di vite ed esperienze, peraltro in larga parte quella motivata da matrimoni misti, e che smentiscono in pieno, senza possibilità di dubbi, una politica che punti sulla cittadinanza per favorire l'integrazione, politica che avrebbe portato la Germania ad avere centinaia di migliaia, milioni di cittadini tedeschi che però sono nati, risiedono e vogliono terminare la loro vita in altre patrie, quelle loro vere. Una politica della cittadinanza dissennata perché invece i veri, drammatici problemi degli immigrati riguardano l'assoluta solitudine della lotta che ognuno di loro fa per riuscire a tornare nel suo paese, alla casa da cui è dovuto fuggire. Tragedia di cui il politically correct integratorio bellamente non si interessa. Definitive al riguardo le cifre della Caritas e della Fondazione Ebert. 4 milioni di italiani sono emigrati in Germania dagli anni 60 al 2007, di cui ben 3 milioni e mezzo sono poi rientrati, mentre solo 140.000 hanno acquisito la cittadinanza tedesca, un esiguo 3%, testimonianza definitiva di un mercato basato sulla rotazione e sul ricambio. Rotazione e ricambio, si badi, non prodotti da rigidità normativa tedesca, perché in quanto membri CE e poi UE, gli italiani sono stati sin dagli anni 60 gli unici immigrati con diritto al soggiorno in Germania senza limiti. Questo è dunque il grande, vero tema. Noi italiani, nord sviluppato, dobbiamo rubare al sud arretrato la migliore forza lavoro, le intelligenze più audaci, per farla lavorare e poi tenercela? Oppure dobbiamo costruire un percorso virtuoso che faccia sì che dopo una lunga esperienza lavorativa in Italia, questi immigrati, forti di piccoli capitali e di una professionalità nettamente accresciuta, possano tornare al loro paese natale, percepirvi la loro pensione e contribuire allo sviluppo del loro paese e soprattutto ricomporre l'unità della loro famiglia, del loro clan, della loro storia. Si faccia un sondaggio tra i mille inutili che si fanno, oppure un'inchiesta di quelle serie, e si ponga agli immigrati la possibilità di scelta tra le due prospettive: l'integrazione definitiva e totale nella società italiana, diventare in tutto e per tutto e solo cittadini italiani, oppure avere la possibilità di fruire della pensione o anche pro tempore dell'assegno di disoccupazione nel più vicino ufficio postale o banca accanto alla casa da cui sono partiti in patria. Lo si faccia prospettando loro l'ipotesi che l'acquisizione della cittadinanza italiana comporti il rifiuto della cittadinanza d'origine, ipotesi che non auspichiamo, sia chiaro, ma che è utile per comprendere il livello di integrazione in Italia che gli immigrati intendono perseguire. I risultati sarebbero sorprendenti e metterebbero la discussione sui suoi giusti binari. L'unica politica seria da perseguire è quindi quella che bilanci integrazione piena dell'immigrato fin quando lavora in Italia, con parità di diritti sociali ed economici, ma non politici, e suo supporto altrettanto pieno per poter ritornare più forte e con piena autonomia economica in patria. Uno schema che definirei di cittadinanza ospite, laddove il primo termine segnala il diritto alla piena equiparazione sociale dell'immigrato e il secondo la temporarietà della sua permanenza in Italia. Temporarietà, si badi bene, non da imporre, ma semplicemente da riconoscere come caratteristica intrinseca al fenomeno migratorio reale, non a quello da libro cuore a cui dissennatamente si fa sempre riferimento. Temporarietà esistente, operante, cui si deve fare riferimento quando si ipotizza l'abbandono dello ius sanguinis a favore dello ius soli, così come per tutte le leggi e gli interventi amministrativi, per fornire la pensione in patria di questo c'è bisogno e grazie all'informatica questo è possibile fare, da mettere in atto. Temporarietà, qui è il problema, di medio-lungo periodo, che però costituisce l'aspetto strutturale dell'immigrazione, esattamente all'opposto di quanto si crede. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Carlo Panella, Meglio ospiti che cittadini, dal Foglio del 29 ottobre.